GR24, il sole 24 ore. Monti presenta il documento economico finanziario, meno tasse dalla lotta all'evasione fiscale. Italiani coraggiosi, ora lavoriamo per la crescita. Effetto IMU sulle case, secondo il Censis il valore degli immobili calerà del 20%. La CGIL intanto boccia il governo, lo sviluppo non è nelle sue corde, dice la Camusso. Stasera fiaccolata a Roma contro i suicidi degli imprenditori. Dopo la rivolta del PDL, Mediaset annuncia ricorso contro l'asta per le frequenze televisive. Morosini, oggi la Camera Ardente a Bergamo. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione GR24, ben ritrovati. Partiamo dalle parole del Presidente del Consiglio Mario Monti alla presentazione del documento economico-finanziario. Abbiamo evitato uno shock distruttivo, adesso lavoreremo per la crescita. Così Monti, sullo sfondo il vertice ieri sera tra lo stesso Monti e i segretari dei partiti, tra qualche tensione. E poi il segretario della CGIL Camusso, che dai microfoni di Radio 24 manifesta sfiducia sul sviluppo, sulle possibilità che il governo rilanci la crescita. Ma andiamo con ordine, iniziamo dalla cronaca del Consiglio dei Ministri, dalle parole di Monti, con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, meno tasse con la lotta all'evasione, lo promette il Premier Mario Monti nel documento di economia e finanza del 2012. Per superare la fase critica, spiega il Presidente del Consiglio, non è sufficiente guardare al breve termine. È stato evitato uno shock distruttivo, l'Italia ha subito un impatto più forte della crisi e ne esce rafforzata ma con fatica. Si nasce fuori dall'Italia, prosegue Monti, ma anche dovuto a fattori di debolezza strutturali della nostra economia. Solo in futuro i proventi della lotta all'evasione dovranno essere utilizzati per ridurre le aliquote fiscali. La crisi è conosciuta nel corso dei mesi, uno dei momenti più difficili, spiega il Premier, ma non è possibile aspettare che la tempesta passi e che la parentesi si chiuda. L'Italia ha messo in sicurezza i conti pubblici e avrà nel 2013 un avanzo primario del 3,9%. Molto però resta ancora da fare, è necessario risolvere il problema dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Il disagio occupazionale tocca quasi la metà delle famiglie italiane e sul piano interno la crescita non tornerà fino al 2013. Il nostro paese investe ancora in poco in ricerca, spiega Monti, ha un numero insufficiente di brevetti e perde troppi talenti che emigrano all'estero. Il documento di finanza propone quindi una visione per lo sviluppo del paese e una direzione di marcia. Il Premier promette, mi auguro che possa offrire stimolo per le forze politiche, le parti sociali e contribuire alla crescita e all'occupazione. Per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, così dunque al Consiglio dei Ministri. E adesso, come dicevamo, le parole del segretario della CGIL, Susanna Camusso, ai nostri microfoni. La crescita non è tra le priorità di questo governo, ha detto intervenendo a 9 in punto da Oscar Giannino questa mattina, sentiamo. Noi abbiamo detto lungo tutto il percorso di discussione della riforma del mercato del lavoro che andava bene provare a costruire nuove regole, soprattutto andava bene contrastare la precarietà, ma che di per sé le regole non avrebbero determinato la crescita di un solo posto di lavoro. A noi continua a parere questa l'emergenza, il fatto che non c'è lavoro, non se ne crea, se ne perde molto rispetto a quello che c'è, si fa fatica a mantenerlo. E soprattutto ci sono due generazioni che non riescono a entrare nel mercato del lavoro, oltre ai tanti che sono trovati fuori e senza prospettiva. Quindi da tempo noi dicevamo il lavoro deve tornare centrale, avevamo forse illusoriamente una speranza che la delega fiscale corrispondesse a una scelta di intervento sull'abbassamento della tassazione per il lavoro dipendente, per le imprese che investono, insomma, fosse indirizzato alla crescita, e le risposte che sono state date ci confermano che invece la crescita non è nelle corde di questo governo e dei provvedimenti che si fanno. Così il segretario della CGIL Susanna Camusso, e intanto secondo il Censis si misura un effetto IMU sui prezzi degli immobili. A fine anno i valori delle case si ridurranno del 20%, con punte addirittura superiori al 50%, così ha detto oggi il direttore generale del Censis Giuseppe Roma, secondo il quale per far fronte alla nuova tassazione le famiglie venderanno le seconde case. E ora il nodo delle frequenze TV. Mediaset ha fatto ricorso al TAR del Lazio contro la sospensione del cosiddetto Beauty Contest per l'assegnazione delle frequenze televisive. Sentiamo. Viene chiamato Beauty Contest, ossia concorso di bellezza. È in sostanza, e in questo caso, l'assegnazione gratuita di nuove frequenze TV. La procedura era stata prevista dal precedente governo era stata sospesa dall'attuale e ora, con il via libera della Commissione Finanze della Camera ad un emendamento al decreto semplificazioni, potrebbe essere cancellata in favore di un'asta. Procedura già sospesa, come si diceva, e contro questa sospensione Mediaset, ha confermato oggi il presidente Fedele Confalonieri, ha fatto ricorso al TAR. La vicenda manda su tutte le furie anche il PDL, che parla di un accordo cambiato all'ultimo minuto dal ministro Corrado Passera. La contesa è sul tetto di frequenze. Non si possono avere più di 5 multiplex, il sistema che permette la diffusione del segnale, e Mediaset e Rai di fatto già li hanno. Ergo, all'asta non potrebbero partecipare, in teoria almeno. Lo stesso Confalonieri ha fatto sapere stamattina nell'assemblea dell'azienda che tutto dipenderà dal regolamento che l'autorità garante per le comunicazioni dovrà varare. E certo, si può aggiungere, dipenderà anche dal futuro del nuovo provvedimento. Dal Popolo delle Libertà hanno già chiarito che la partita non è chiusa. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri sera dicevamo vertice tra Monti e i segretari dei partiti Alfano, Bersani e Casini, che sostengono il governo, la giustizia, la riforma del lavoro e soprattutto un patto per la crescita, questi i contenuti, ma anche, come abbiamo appena sentito, la questione che irrita il PDL, e cioè l'asta delle frequenze. Ne parliamo con Stefano Fogli, editorialista del Sole 24 Ore, al quale chiediamo prima di tutto che cosa prevede questo patto per la crescita. Stefano. Il governo ha questa missione, che è una missione politica e di merito, e penso che debba procedere con la determinazione che ha impiegato nei primi mesi del suo mandato per la riforma delle pensioni e per altri provvedimenti. Il vertice in quanto tale non può fare altro che, come dire, assecondare un impegno che deve essere del governo e deve essere, a mio avviso, finalizzato ad alcuni obiettivi ben precisi, a cominciare dalla riduzione della spesa pubblica e in prospettiva dalla riduzione delle imposte, naturalmente. Da questo punto di vista il vertice è importante, ma non è così decisivo come invece una forte determinazione da parte del governo tecnico. Mario Monti ha detto poco fa che ci vorrà del tempo per arrivare alla crescita dell'economia italiana, almeno fino all'anno prossimo. Tu pensi però che nel frattempo possano essere prese delle misure che diano almeno il senso di marcia, la direzione da intraprendere per questo sviluppo dell'economia? Ma questo è chiaro, bisogna che il governo mantenga viva la tensione nel paese. Gli italiani non possono pensare di essere soltanto costretti a pagare molte tasse, ci deve essere una direzione di marcia, è questo che si chiede a un leader come Mario Monti. Ripeto, da un punto di vista politico i partiti hanno in questa fase, secondo me, un ruolo abbastanza smorto, perché una volta stabilito che vogliono arrivare al 2013, che non hanno vere intenzioni di modificare la direzione di marcia perché non saprebbero come sostituire il governo in carica, e quindi si arriva alla fine naturale della legislatura, si tratta di riempire questi mesi, di non perdere tempo. Le difficoltà sono enormi, molte dipendono dall'Europa, non dipendono direttamente da noi, ma occorre che ci sia una capacità di parlare al Paese, ecco, di entrare e di mantenere quella comunicazione con il sentimento dell'opinione pubblica che c'era nei primi mesi del governo e che non vorrei che adesso andasse smarrito. In questo senso i partiti possono dare un loro contributo se dimostrano di sostenere il governo con una autentica convinzione. Ora, il vertice è andato bene da questo punto di vista, ma non basta un vertice, ci vuole un'azione poi costante e quotidiana. Stefano, brucia anche la questione delle frequenze TV, perché il governo dall'asta pensa di recuperare un po' di risorse da una parte, dall'altra il PDL insomma ha manifestato il malessere, Mediaset oggi ha annunciato ricorso, tutto questo in vista di un incontro che ci sarà tra Monti e Berlusconi. Insomma, il Cavaliere è una figura sempre incombente ancora sulla scena politica. Certo, è incombente ed è un po' singolare questo incontro con Berlusconi all'indomani di fatto del vertice politico, però così è, e io credo che Berlusconi non abbia intenzione o interesse a creare troppi ostacoli al governo in carica, ma indubbiamente il tema delle frequenze è un tema molto doloroso, molto sensibile per lui, così come certi temi legati alla giustizia e alla legge anticorruzione. Quindi l'incontro di domani è rilevante dal punto di vista politico, ma certo un po' singolare perché viene all'indomani del vertice per i tre partiti. E allora ringraziamo Stefano Folli per essere stato con noi. Abbiamo commentato le notizie politiche di giornata. Adesso invece parliamo di cronaca, perché Pier Mario Morosini è tornato nella sua Bergamo ieri sera. La salma del calciatore è stata accolta vicino allo stadio da un migliaio di tifosi. Oggi la camera ardente, mentre emergono nuovi sospetti. Un omaggio commosso, quello della sua Bergamo a Pier Mario Morosini, il calciatore morto in campo sabato scorso. Ad accogliere il feretro ieri, oltre ai tifosi, anche i vertici dell'Atalanta, la squadra che quando il Moro, così era chiamato, aveva solo 7 anni, lo aveva avviato alla carriera professionale. Oggi la camera ardente, domani poi i funerali, ai quali si prevede parteciperanno migliaia di persone. Sul fronte giudiziario, la Procura di Pescara ha acquisito l'audio di una telefonata fatta durante una trasmissione di un emittente locale abruzzese. Un paramedico della Misericordia, Marco Di Francesco, intervenuto sabato scorso in campo a Pescara, ha raccontato la sua versione sui soccorsi al calciatore. Il defibrillatore era a fianco a me aperto, si vede perfettamente da una fotografia che stava sul centro. Ma l'avete collegato al paziente? No, collegato no. Fu il medico del Livorno Porcellini che stava assistendo il calciatore, secondo Di Francesco, a non volere usare dunque il defibrillatore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È sempre per il calcio giocato, però è andata al Bayern di Monaco ieri sera la prima super sfida di Champions League, la semifinale, la gara di andata 2-1 contro il Real Madrid all'Allianz Arena. Stasera invece alle 20:45 l'altra semifinale di andata tra il Chelsea e il Barcellona. 13:16 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato delle parole del Presidente del Consiglio Monti, che presentando il documento economico finanziario ha detto: meno tasse dalla lotta all'evasione fiscale, gli italiani sono stati coraggiosi in questa fase, adesso lavoriamo per la crescita. Intanto però dai microfoni di Radio 24 il segretario della CGIL Susanna Camusso boccia l'esecutivo, lo sviluppo non è nelle sue corde, dice, e secondo il Censis ci sarà un effetto IMO sui valori delle case che potrebbero scendere a fine anno del 20%. Abbiamo parlato poi della rivolta del PDL e contro l'asta delle frequenze TV. Mediaset oggi ha annunciato ricorso contro questa decisione del governo. E poi a Bergamo oggi camera ardente per Pier Mario Morosini. Adesso le altre notizie. Secondo uno studio Eures diffuso ieri, nel 2010 i suicidi tra le persone senza lavoro sono stati oltre uno al giorno, e gli imprenditori che si sono tolti la vita in questa prima parte dell'anno per problemi economici sarebbero già 23. Per questo stasera sindacati e imprese sfileranno uniti a Roma. Silenziosamente, il titolo scelto per la fiaccolata organizzata da 20 sigle tra sindacati, associazioni e confederazioni, tra cui anche, lo ricordiamo, CGIL, CISL, UIL, Confcommercio, Federlazio Unindustria. Maurizio Flammini, presidente di Federlazio, intervenuto questa mattina a 9 in punto. Oggi diamo un grande significato a questa iniziativa che ci sarà al Pantheon alle ore 20. Tutte le associazioni imprenditoriali e tutti i sindacati insieme, per la prima volta veramente, faranno questa manifestazione. Il mondo produttivo del lavoro vuole dare un segnale di unità alla politica, si può e si deve essere uniti. Abbiamo molte richieste da fare, vediamo un futuro difficile. E in questa realtà fatta di crisi c'è anche però chi ce l'ha fatta. Questa per esempio è la storia di Christian Stangalini, che ha deciso di rimettere in piedi l'azienda dalla quale proveniva e che era stata chiusa. Ora è il titolare della OMP Fili, ha riassunto 15 tra i suoi ex colleghi e per fare tutto questo ha anche dovuto vendere la casa. Il fatto di avere 2 figli piccoli a cui pensare non lo ha fermato, anzi, sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Proprio per i figli, perché comunque, dato che non possiamo fare più conto neanche più sulla pensione, e soprattutto anche per andare avanti con un'attività che secondo me aveva ancora ottime prospettive di funzionamento. Lei, nel momento in cui è stato licenziato, che cosa ha fatto poi fino a quando ha rimesso praticamente in piedi l'azienda? Io non sono stato licenziato dall'azienda, l'azienda ha fatto la cassa integrazione della mobilità, io ero comunque operativo per l'azienda, stavo seguendo comunque delle fasi di chiusura. Nel frattempo comunque stavo già prospettandomi il futuro, comunque sia, dato che sono parecchi anni che sono nel settore, io avevo prospettive di consulenza, quindi io onestamente non sarei mai rimasto a piedi. Però comunque non mi piaceva buttare alle ortiche capacità lavorative dei collaboratori, clienti e tutto il resto, ancora un mercato che comunque ha sempre bisogno di prodotto. Dov'è che ha trovato porte aperte e dove porte chiuse? Ma le porte aperte si può dire dappertutto inizialmente, quando poi dopo si entrava nel vivo del discorso e cioè, si capiva e realizzavano che comunque era una startup, iniziavano i paletti, iniziavano a chiudere. Io ho trovato aiuti fortissimi da quelli che sono amici che avevano amici, quindi tramite il mio commercialista siamo riusciti a entrare su una banca dove il direttore era un suo amico, ma per quello che riguarda il resto tante belle parole, però poi alla fine nulla di concreto. E adesso terza puntata del nostro viaggio, ora o mai più. Adesso o mai più, le emergenze di un paese sommerso. Il paese rischia di impiccarsi con la corda dei suoi vizi storici. Poco tempo e una missione quasi impossibile: scardinare decenni di corruzione, evasione e mafie. Ma dalla lotta all'illegalità, come riconosce il premier Mario Monti, passa il futuro dei giovani, e questa per l'Italia è l'ultima chiamata. Sono i numeri a indurre magistrati di lungo corso come Roberto Scarpinato a suonare la campanella d'allarme, perché la ricreazione è finita, dice. Numeri come i 60 miliardi annui di corruzione, i 120 di evasione fiscale o i 150 del fatturato delle mafie, mischiati con reti clientelari e scambi tra appalti e voti. Numeri che hanno bloccato la crescita, ammonì il presidente della BCE Draghi. Numeri però in passato tollerati, metabolizzati e forse dimenticati, con un massiccio ricorso all'inflazione in un'economia che allora girava ancora e che ora invece si è inceppata. L'Italia così, squarciata l'illusione di una tavola sempre in bandiera, si è ritrovata all'improvviso nuda, con un debito pubblico esploso, meno soldi nelle tasche e senza strumenti per reggere la concorrenza, visto che per anni la regola delle cricche e delle bustarelle ha reso secondario, se non superfluo, investire in ricerca. Tanto gli appalti erano garantiti comunque. È dunque per convenienza, ancor più che per etica, che la lotta all'illegalità è ora ineludibile e urgente, perché non più sostenibile. La recente apertura di credito verso il paese è l'ultima chiamata. Dopo, il rischio è la Grecia. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora riprendiamo con la cronaca e gli sviluppi dell'inchiesta su La Vitola, la Guardia di Finanza. Oggi è andata a Palazzo Chigi su mandato della Procura di Napoli. I militari hanno sequestrato 2,5 milioni di euro presso il Dipartimento per l'Editoria. Si tratta, secondo quanto si apprende, dei fondi già concessi ma non ancora erogati per il quotidiano L'Avanti, relativi all'anno 2010, L'Avanti di cui La Vitola era il direttore. È atterrato stamattina a Roma il volo dal Burkina Faso che ha riportato in patria Maria Sandra Mariani, la turista rapita 14 mesi fa in Algeria. Sentiamo. Un arrivo in forma strettamente privata, quello della 53enne toscana, tutto diverso da quello di Paolo Bosusco una settimana fa, dopo la liberazione dai guerriglieri maoisti indiani. Ad attendere Maria Sandra Mariani all'aeroporto di Ciampino c'erano solo i familiari e le autorità, niente giornalisti o fotografi. Rimasta per 14 mesi nelle mani di Al-Qaeda per il Maghreb islamico, la Sandri è stata direttamente accompagnata in procura per essere ascoltata nell'ambito dell'inchiesta aperta dagli inquirenti del pool antiterrorismo dopo la sua cattura. Ma nemmeno lì la donna, visibilmente dimagrita e con indosso una tuta grigia, ha voluto rilasciare dichiarazioni. Insomma, le sue uniche parole note sono quelle che riferiscono i familiari che l'hanno sentita per telefono. Come stai, Sandra? Sì, sono lì. Ho tenuto i vestiti indossati durante il sequestro, avrebbe detto ai genitori. Non li ho buttati via, li porterò a casa, a San Casciano, dove li brucerò. Dove sei, bisogno? Dove? Una dichiarazione sufficiente a capire tutto. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso un appuntamento di arte, il St. Louis College of Music di Roma, riconoscendo il ruolo di primaria importanza del jazz nella cultura musicale occidentale, ha deciso di costituire il primo archivio nazionale del jazz sul web per non disperdere le immense collezioni private, fonte documentale di primaria importanza. Responsabile dell'archivio Adriano Mazzoletti, al microfono di Adriana Fracchia. Il mondo del jazz è enorme, i documenti che esistono sono tantissimi e c'è un rischio grande che questi documenti vadano perduti, perché i collezionisti, quando si stufano oppure quando purtroppo passano a miglior vita, e gli eredi non sanno mai cosa fare di questi archivi. E allora si è pensato di costituire un archivio nazionale che possa portare all'interno, per il momento sul web, poi quando avremo la possibilità anche fisicamente, tutto questo enorme materiale, dischi, libri, ma soprattutto registrazioni, concerti, jam session, soprattutto quel mondo che vive una notte solo o un'ora solo, poi scompare, che è appunto il concerto live, il concerto dal vivo. Perché? Perché il jazz, come si sa, è una musica che si basa sull'improvvisazione, e allora, essendo una musica improvvisata, è sempre diversa. E allora abbiamo trovato l'idea di fare questo sito dedicato al jazz, diciamo, mondiale, sì, ma soprattutto al jazz europeo, di cui si sa ancora abbastanza poco. Ci sarà un discreto spazio dedicato al jazz italiano? Assolutamente sì, perché il jazz italiano oggi è il top, è la musica jazz più importante che esista al mondo. Ed è tutto per questa edizione di GR24, ma ci ritroviamo tra pochissimo dopo la sigla con l'appuntamento con il nostro Radio Day. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.